dai, facciamo un momento festa, piglia la cesta. Dai. Gigi D'Agostino, quello che mi piace. Ogni sabato pomeriggio, dalle 2 alle 4. Mi piace se ti piaccio. Knock knock over if you talk, won't be the with the non-stop pop up, stay up the part go. Knock knock over if you talk, won't be the with the non-stop pop up, stay for this pop pop. Knock knock over if you talk, won't be the with the non-stop pop up, stay up the part go. Knock knock over if you talk, won't be the with the need be the down with the stay the stop stop. Knock knock over if you talk, won't be the with the non-stop pop up, stay up the part go. Knock knock over if you talk, won't be the with the need. Noi siamo la musica del futuro. Noi siamo, sai quelli che... Certo. Perché noi siamo l'avanguardia. Noi facciamo underground. Noi facciamo underground. Noi siamo un popolo che sta più... Che sta più a contatto di, con... Più di nicchia, sta nicchia. Sta nicchia. Sta nicchia. No. Vabbè che tutti vogliono la musica boom boom boom boom, boom, però boom. Bisogna anche riempire la pista. Cioè ci va fare il pezzo di riempipista. Perché se no metti il pezzo di riempipista, la gente mette il cappotto, va a casa. Esatto. Ciao, di gioca, io rotti coglioni, non va bene, finito. Finito. Vai con riempipista. Riempipista, porta, dai. Dai. Dai, mettimi quella dai, che dai. Fa. Thank you. noi, cioè, noi la musica, cioè, la musica commerciale, sì, queste cose qua, da poveracci, sì, non so, da barboni, roba commerciale, noi siamo underground. Fa il cubo alla lavagna, ma non me rompe il cancellino. Il cancellino sì. Fa anche rima con Giulia Agostino. D'Agostino, quello che mi piace. Dai un po', roba de lancia al cuore, roba de strappa lacrime, roba de inciuci, roba de innamoramenti qua, regà, roba de passione. Friends. questo è quello che mi piace. Il teatro elettronico. Se fermiamo un attimo, pubblicità. Ah, regà, restate qua. Gigi D'Agostino, ve fa volà. Ciao. Questa è quella buona. Cioè, veramente, 10 euro. Ti calo subito 10 euro. Dopo la pubblicità, ricomincia a suonare Gigi D'Agostino, alta qualità. pensavo che dicevi tu. Giovedì. Giovedì. 31 dicembre. 31 dicembre. 2009. 2009. Quindi la notte roba di Capodanno. Capodanno 2009-2010. Dalle 19 al Castello Scaligero o Scaligero di Villa Franca Veronese. Prego, se vuoi dire tu. Dalle ore 19 dal Castello Scaligero. Into the Castle, capito? Dalle ore 19 in the Castle. Into the Castle. Into the Castle. E dalle ore 19 c'è festa. Facciamo musica, c'è tanta musica, si mangia, si beve molto moderatamente. Sempre quello. Non bisogna esagerare. Siete tutti invitati. Se volete venire alla festa d'Italia, perché è la festa più grande d'Italia, noi vi aspettiamo lì dalle 19 in poi fino all'alba. Ah sì, sul sito, bisogna andare, certo, sul sito, su www.gigidagostino.com, casa Dag e tutti gli amici nostri da anni. Ah, e poi mi sono sentito, costa un cazzo, 10 euro. Buono. È buono. Ah regà, 10 euro e passa la paura. Gigi D'Agostino, quello che mi piace. Ogni sabato pomeriggio, dalle 2 alle 4. Mi piace se ti piaccio. Sono cose che si possono dire, allora tienitele per te. Se sono cose che non si possono dire, allora puoi scrivermi un messaggino al 333-6467-66. Lo ripeto? Dunque, 333. Allora. 333-6467-662. Dai un po' queste meno costi tappeti, roba dei colline son fiore qua, regà. Ogni sabato pomeriggio, con te. Just like a king, I can't stop. storia d'amore. E qui, la prima volta che ho suonato in discoteca, il mio 18° compleanno, chi se lo dimentica? I miei vecchi amici, chissà dove sono finiti. Viaggio nei ricordi, braccio del passato, l'amore che c'è stato, nostalgia sola. Quello che mi piace, il teatro elettronico, su M2O. Arrivo delle perturbazioni, ma non è che qui siamo tutti. Colgo l'occasione per dirvi che chi non alza una mano, chi non alza la mano non entra a Capodanno. Oh. Avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. E che tu dica fa, ci avete rotto il cazzo. La passeggiata comincia lenta, molto lenta. Diciamo 80 passi al minuto, circa 80 passi al minuto, diciamo 80 passi al minuto, circa. Benvenuti in questo viaggio. 80 pezzi al minuto, circa 80 pezzi al minuto, diciamo 80 pezzi al minuto, circa 80 pezzi al minuto, molto circa 80 pezzi al minuto, circa 80 pezzi al minuto, diciamo 80 pezzi al minuto, circa 80 pezzi al minuto, molto circa 80 pezzi al minuto, circa 80 pezzi al minuto, diciamo 80 pezzi al minuto, circa 80 pezzi al minuto, molto circa. D'Agostino ti porta lontano, lontano, lontano, lontano, in un mondo diverso, ma molto più sano. D'Agostino. Questa musica, musica. Sì, mi rendo conto. procediamo lentamente, sir. Molto lentamente. Molto lentamente. Procediamo lentamente, sir. Molto lentamente. Molto lentamente. Molto lentamente. Molto lentamente. M2A musica che unisce. alle 4. Senza impegno. Sentito un sound così finora, ma come la mettiamo sul mercato? Come puoi cambiare qualcosa se puoi mostrare solo cose belle? E che musica è questa? E ritualità nei riti magici come quelli voodoo. Veniva ripetuto, veniva ripetuto, veniva ripetuto, veniva ripetuto, veniva ripetuto, veniva ripetuto, veniva ripetuto, veniva ripetuto, veniva ripetuto, veniva ripetuto. Minuti di pausa. Cercate di non fare tardi, che non ci piace aspettare. Quello che mi piace. Quiero ballar. Comportamento del movimento. Lo spostamento. Ogni momento. Non in sì. Baby, I- Stai ascoltando M2O. Benvenuti in questo viaggio. Thank you. terrorista Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Non giocamo.com. Non giocamo.com. D'Agostino. Dossiamo. M2O. Quello che mi piace. Thank you. più importante della vita. Se hai rispetto, puoi andare lontano. Qualcosa di diverso. Lasciarti ingannare. Entra nel ritmo. Benvenuti dentro la musica. Passeggiata mentale di un uomo emotivamente musicale. Piace. When all the bells go, see the bands don't punch. When all the bells go, see the bands don't punch. When all the bells go, see the bands don't punch. the beans don't punch the nut on the rap. A volte basta poco per sentire la gioia di una giornata. Magari qualcuno che camminando mi sorride lungo la strada. Felicità è quando penso che sto tornando a casa da te. La verità, affronti la realtà con più coraggio. Benvenuti in questo viaggio. Bene, anche nel perseguire le cose migliori, procedere con calma e moderazione. Cicerone, mica Gorione. Gigi D'Agostino. Poeta, profeta, star di elettricità. Dance. M2O. State ascoltando uno degli orizzonti musicali più dolci e soavi di Gigi D'Agostino. Ciao e grazie.